Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto, grazie a Valerio Rocchetti, il nostro regista, a Riccardo Silvi, il nostro redattore. Partiamo con questa nuova puntata e abbiamo una guida che abbiamo a lungo ricercato perché avevamo, per così dire, i suoi scritti, non avevamo il suo volto. Benvenuto Vincenzo Grienti. Salve, salve, salute a tutti. Vincenzo lo seguiamo con attenzione da quando qualche anno fa scrisse un libro molto interessante, La parola e le notizie, chiesa e comunicazione al tempo di internet. Vincenzo è giornalista professionista, collabora con Avvenire diversi periodici, è consulente di un'immagine di trasmissioni televisive, ma è soprattutto dal 2001 un solerte lavoratore, perché usiamo così da quando il Papa ha detto che anche lui è un lavoratore nella vigna del Signore, quindi siamo tutti lavoratori anche dopo l'encicla, nell'ufficio comunicazioni sociali della CEI, dove si occupa di ufficio stampa e rapporti con i media, cioè diciamo con quella speciale categoria chiamata vaticanisti, a cui noi apparteniamo pure, ma per cui, su cui possiamo anche per il momento gettare un velo pietoso. Vincenzo ha dato alle stampe un nuovo libro, Chiesa e Web 2.0, pericoli e opportunità in rete. La prima domanda che faccio, poi ci dirai dove ci guiderai con questo cielo provvisorio. Io mi ricordo che quando il mondo di internet si creò, poi non si è mai capito se si è creato da solo oppure è stato creato a immagine e somiglianza di qualcuno, i primi entusiasti aderenti al nuovo popolo, al nuovo mondo, erano le realtà cattoliche, i monasteri, le abbazie, le comunità religiose, le parrocchie, anzi che addirittura si parlò di una specie di ritorno dei nuovi scriptoria, come nel Medioevo le abbazie salvavano la cultura. Poi dopo si è visto che questo entusiasmo iniziale si è un po' scemato strada facendo. Che è successo? Beh, all'inizio, come sempre, sia per i cattolici ma un po' per tutti, c'è stato sicuramente un entusiasmo nell'utilizzo della rete. Poi, come sempre accade per tutte diciamo le mode, c'è stato prima una battuta di arresto. Oggi ci troviamo in complessivo ad avere almeno 15.000 siti cattolici, quindi c'è stata italiani. Italiani ad avere prima una battuta d'arresto, poi invece c'è stato un ritorno, forse una riscoperta. Forse perché internet da 20 anni a questa parte è stato un luogo dove tutti hanno iniziato a navigare, conoscere, a smanettare in un certo senso, tanto per usare un gergo caro a chi va su internet e chi utilizza per tante ore il PC. E poi pian piano c'è stato, diciamo, un ritorno con la creazione di siti internet, con la creazione anche di blog, di pagine personali, quindi ma ci sono anche tanti siti istituzionali delle diocesi, delle parrocchie, eccetera eccetera, e dobbiamo dire che questo ritorno, insomma, rispetto all'universo di internet, è un ritorno positivo, in quanto ognuno esprime la propria identità sulla rete. Ma appartenendo io alla categoria dei preti che vengono spesso sbeffeggiati dai siti cattolici per motivi vari, tanto in tanto rifletto, perché poi in realtà è vero che nella teologia ascetica stare da soli con se stessi, solipsismo, è una virtù ascetica fondamentale, tanto che anche se ti metti poi sopra una colonna diventi uno stilita, hai l'intera chiesa, l'intero universo insieme a te. Invece la solitudine davanti a un computer fa venire sia a galla quello che uno ha dentro se stesso. ma anche l'idealità, tra virgolette, cattolica come altre idealità vengono a galla e non sono né purificate né purificanti, portano a galla anche un sacco di scorie. Tu che guardi questa chiesa, cosa pensi? No, penso esattamente, mi viene in mente quello che prima di tutto dice Benedetto XVI quando nell'ultimo e recente messaggio in occasione per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali scrive proprio che fa riferimento all'uomo e al suo desiderio di comunicazione e amicizia radicato nella natura stessa dell'essere umano e non solo come risposta alle innovazioni tecnologiche. Benedetto XVI dice innanzitutto che quando sentiamo il bisogno di avvicinarci ad altre persone, quando vogliamo conoscere meglio e farci conoscere, stiamo rispondendo alla chiamata di Dio, una chiamata che è nella nostra stessa natura di uomini creati a immagine e somiglianza di Dio. Ecco, io rispondendo alla tua domanda penso a questa chiesa, una chiesa che è consapevole del fatto che il bene prezioso del Vangelo urge l'annuncio e la missione, accoglie la sfida della nuova dimensione della rete, una sfida che la Chiesa ad esempio ha raccolto già dal 2002 con due documenti pontifici, Etica in Internet e la Chiesa e Internet, e sempre nel 2002 ricordo la 36ª giornata mondiale per le comunicazioni sociali dove Giovanni Paolo II parlò di Internet come forum per proclamare il Vangelo. E disse una frase molto carina, disse in un certo senso Internet ha cambiato la mia vita. Sì, tutti ricordiamo quando in occasione, credo di, se ricordo bene, di Ecclesia in Australia, la fotografia che si vede proprio Giovanni Paolo II cliccare sul computer, rimase un'immagine... E promulgare il testo con il click. Con il click, e quindi rimase un'immagine ben impressa, non solo alla mia generazione, ma a tutti. E questo proprio per dire come la Chiesa abbia una certa fiducia in queste meravigliose invenzioni che l'uomo ha creato. È importante che l'uomo queste invenzioni, questi strumenti, innanzitutto li crei per il bene e non per il male. Ecco, la rete, come appunto parlando nel mio saggio, la rete può essere un luogo sia di opportunità sia di rischi, e quindi penso che la nuova frontiera, ecco, di Internet, ma specificatamente del web 2.0, possa offrire alla Chiesa un'occasione del tutto inedita che non va persa, non solo dal punto di vista pastorale, non solo nell'aspetto importante dell'annuncio, ma proprio nella dimensione anche del fare comunità. Pure è vero che molte volte chi si approccia, parlando proprio della solitudine che si può avere davanti a un PC, davanti a uno schermo, chi si approccia a Internet possa correre questo rischio di... Tu lo chiami solitudine di tastiera. Di tastiera, prendendo come spunto la frase che Bauman, ma anche altri sociologi, altri esperti di media hanno utilizzato. Ecco, bisogna in un certo senso evitare questo rischio, cioè di essere sempre connessi, cioè capire che prima di tutto c'è anche una relazione faccia a faccia che fa la differenza. Ad esempio attraverso Internet non riesco ad accendere, ad attivare un'empatia oppure stare attento a quello che è la comunicazione non verbale, tanto per citare ad esempio Desmond Morris, che ha fatto tantissimi studi sulla comunicazione non verbale, cioè attraverso Internet, attraverso le faccine, attraverso le foto non riesco ad entrare in un contatto face to face. E quindi c'è lì la differenza del tipo di relazione con l'altro. Non a caso anche nel mio libro cito più volte sia Emanuele Levinas e sia Kapuscinski. Entrambi hanno fatto un riferimento al nostro rapporto col mondo e al nostro rapporto con gli altri. Ecco, internet si mette in una posizione rispetto alla persona umana di entrare in rapporto con gli altri, in connessione, in condivisione con gli altri, però molto spesso evitando di fare riferimento a quello che è la relazione faccia a faccia. Stiamo parlando di questa chiesa che vive sul web 2.0, su YouTube, Facebook, Twitter, intanto per intenderci, con Vincenzo Grienti, che è, per così dire, l'osservatore, lo scrutatore più attento di questo fenomeno, la parte cattolica. Aveva un po' anticipato la mia domanda, perché nell'introduzione al suo libro Chiesa Web 2.0, Don Dario Viganò, che è un altro grande comunicatore e soprattutto scrutatore con pazienza certosina di tutto ciò che è multimedialità, dal cinema a questi nuovi fenomeni, le parole tradizionali un po' della fede cristiana, cattolica, come comunità, ritradotte con un linguaggio social network. Però abbiamo visto, io sono rimasto molto impressionato, forse lo diciamo ai nostri ascoltatori per dargli questo senso, perché a volte abbiamo in testa titoli di giornali che ci raccontano una chiesa da caricatura come quella che degli ultimi giorni, poi si va a Sydney, si vede una settimana dove un fiume di 450 concerti di musica rock, quindi c'è un segmento di musica rock che parla di religione con personaggi famosissimi, riconosciuti, un tipo di comunicazione incrociata dal web alla radio, passando per, e questa comunità di 16-18enni pronti, cioè il ricambio generazionale, diciamo, della generazione Wojtyła, per intenderci, che non hanno perso nulla dell'entusiasmo, hanno già un patrimonio della generazione precedente e introducono mezzi di comunicazione diversa. Però da noi ci sono ancora i menagramo che dicono che il rock è satanico, insomma, poi appena si esce di casa si accorge che è la nuova lingua dell'evangelizzazione. Davanti al nuovo, Vincenzo, cosa dobbiamo dire? Beh, davanti al nuovo dobbiamo essere innanzitutto aperti, nel caso di internet e delle nuove tecnologie, utilizzare questi strumenti con buon senso, prima di tutto, con competenza e con responsabilità. Vincenzo Grienti, la nostra guida questa settimana, è autore di Chiesa e Web 2.0, Effata editrice. Beh, insomma, l'avete capito, è un libro cattolico, la nostra guida questa settimana. Il cielo in una frase, di Filippo Di Giacomo. E di Vincenzo Grienti, giornalista professionista, lavora presso l'ufficio comunicazioni sociali della CEI, dove si occupa di ufficio stampa e rapporti con i media, scrive libri, suo ultimo libro Chiesa e Web 2.0, Effata editrice, ci introduce in questo mondo che sembra virtuale solo quando ne parliamo tra di noi e poi diventa immediatamente reale non appena una persona si siede di fronte alla tastiera di un computer ed entra, abbiamo usato la parola comunità, anche se poi magari termine nella sua traduzione webbiana e social networking, e così abbandona anche certe connotazioni culturalmente passatiste che ultimamente la parola comunità sembra avere, per riaprire anche questo modo di vivere a qualcosa di nuovo che però può essere anche first life e second life, Vincenzo. Sì, first life, second life, per utilizzare una metafora, potrebbe essere anche la differenza tra quella che è il web 1.0 e il web 2.0, laddove il web 2.0 non è altro che una locuzione che ci mette nelle condizioni di dire che internet è passata da una prima fase a una seconda fase. fase, la seconda fase appunto di quella del social networking, dei social network, delle cosiddette reti sociali, come, tanto per citarne qualcuna, Facebook, MySpace, Twitter e altre, c'è una fase in cui è possibile collegarsi in rete e comunicare contemporaneamente nello stesso momento tramite internet. Quindi internet diventa un luogo dove la comunicazione è molto più fluida rispetto a quello che invece era precedentemente, quando internet era prima di tutto una fonte di conoscenza, una fonte di sapere. Occorre dire che il Second Life, ad esempio, è una delle, ha avuto il suo successo ultimamente, però poi pian piano è andato a scemare, cioè è stato non più tanto utilizzato rispetto alle aspettative del primo momento. Un po' sono delle mode, in un certo senso, di passaggio, ci sono dei momenti altalenanti. Stessa cosa sta avvenendo con Facebook e con Twitter. Ad esempio, si parla quotidianamente di Twitter come in crescita rispetto a Facebook, cioè sono tutti dei social network, delle reti sociali, delle applicazioni che mettono nelle condizioni l'utente di poter comunicare con tantissime altre persone. Basta pensare, ad esempio, che su Facebook almeno circa 200 milioni, dicono le statistiche, sono gli utenti che hanno attivato un proprio profilo su Facebook. In Italia credo che siano oltre 1 milione. Alcuni entusiasti dicono che questi social network saranno sempre più utilizzati dalla persona utente, altri invece dicono che, come si è visto con Second Life, avranno un exploit nella prima parte della loro vita, poi pian piano magari andranno a l'utilizzo andrà sicuramente a calare. C'è una tua citazione nel tuo libro, è riferita a Geert Lovink, un professore di Amsterdam, il quale in un suo saggio scrive: la cosiddetta conversazione pubblica globale, sempre in corso, sempre linkata, sempre immediata, accede alla frammentazione del panorama mediatico, e conclude, sempre secondo Lovink, una specie di malattia di impulso che sta dentro internet, che è un impulso nichilista. Sì, cioè, il Papa è più ottimista, in realtà, la citazione che abbiamo, certo. Molto più ottimista. Beh, dobbiamo dire che Lovink è sicuramente uno dei critici, come potrebbe essere Andrew Keen, anche, ha scritto anche altri libri, e fa riferimento soprattutto al blog come uno strumento che molte volte può indurre a comunicare di una persona all'interno del mare magnum della rete, con la consapevolezza di dire quello che pensa davanti al mondo, però poi occorre vedere quale e quanti sono le persone, gli utenti che vanno a leggere quello che in quel blog si va a dire. Ecco, Lovink è uno dei critici del blog, ha scritto un libro proprio sui blog dal titolo Zero Comments, e quindi molto interessante vedere anche questo aspetto. Poi naturalmente ci sono anche gli entusiasti, chi invece sottolinea che il blog è un mezzo di espressione che permette di comunicare in maniera libera e di dire la propria opinione su internet in maniera libera e democratica. Quindi anche qui il pro e il contro. Invece un saggio e colto sacerdote salesiano che si occupa di comunicazione e che è un grande teorico della MyTV, cioè è un sistema, ci sono già due federazioni in Italia di persone che accendono una webcam sull'altare della propria parrocchia. Però la webcam la telecamera ha una piccola caratteristica, che può facilmente uscire di chiesa, e quando va sulla chiesa può incontrare il piazzale non illuminato, i cassonetti dell'immondizia non svuotati, e per una legge immediata Niente rende più critici sulla comunicazione che diventare operatori della comunicazione. E quindi da, diciamo, la webcam che riprende la messa si passa poi a uno strumento politico a livello locale che diventa la croce e delizia degli amministratori. In Italia è molto diffuso, si sta diffondendo sempre di più, tanto che mi hanno detto che a Cagliari è un po' l'opzione alla comunicazione della diocesi, così come a Pistoia e in tante altre realtà. Se ne parla poco. È questa specie di giornalismo dei cittadini che la cultura cattolica specifica sul web sta veicolando. Non ce ne accorgiamo, però sta avvenendo. Tu che la osservi, cosa ne pensi? Ah, da giornalista, quello che è il citizen journalism è un fenomeno che ampiamente è discusso in quest'ultimo periodo, perché attraverso i nuovi media è possibile diciamo osservare e riprendere con una piccola telecamera tutto quello che c'è nella realtà. In un certo senso occorre dire che un po' da un lato snatura la professione giornalistica, Rimette in discussione anche la proprietà, Gli editori non sono più degli dei nel firmamento. Sì, è anche un mezzo di espressione di libertà, però ecco, dobbiamo dire che è uno strumento che si mette, che è a disposizione, quindi può essere utilizzato anche quello come pro, come contro, però è uno strumento. Basta pensare ad esempio all'11 settembre, alle Torri Gemelle, senza quella prima forma di citizen journalism magari non avremmo avuto le immagini che poi abbiamo visto, o drammatiche purtroppo, però al riguardo magari ci possono essere invece tante possibilità di raccontare fatti più positivi, buone notizie. Quindi gli strumenti, come dicevo prima, possono essere utilizzati per il bene e per il male, poi dipende dal discernimento che ne fa l'uomo che le usa. È molto interessante, scrivi, quanto rileva Giuliano da Empoli in riferimento l'articolo o il libro di Giuliano da Empoli, il libro credo è Obama, la politica nell'era di Facebook, in riferimento alla famosa legge dei 6 gradi di separazione applicata a internet. Proprio in virtù dell'intimità che ha la sua radice, il web 2.0 è un mezzo di trasmissione caldo che coinvolge e spinge alla partecipazione. Beh, questa sembra proprio la piena sintonia con il pensiero del Papa. Beh, è chiaro che in quel caso Facebook è uno strumento che ci mette nelle condizioni di avvicinare sempre di più le persone tra loro e di metterle in relazione. Vincenzo Grienti, giornalista professionista, autore di Chiesa e Web 2.0. Beh, possiamo concludere dicendo che almeno per la rivoluzione multimediale nessuno è autorizzato a credere che la Chiesa sia in ritardo di una rivoluzione. Grazie Vincenzo. Grazie a Valerio Rocchetti, grazie a Riccardo Sidvi e a risentirci.